c'è il paletto telescopico, ragazzi, come ho fatto io. Attaccata la finestra con la gaffa di quelle di parabola, va bene. Qualche modo di piazzarsi con l'antenna, di fare strada con questa antenna, con l'antenna, lo fai di sopra il tetto, tu? Bravo! Sì, tutto il piano lì, sta di sopra il tetto. Non è come si dica, io antenne forte non ne ho. Siamo quella lì e basta. Santiago Lopez, vabbè, con questa antenna che ho io qui, piazzata così com'è, vabbè. Ma finito, lo so il punto, eh? Eia. Alessio. Pagaccia. Qua è un casino mettere l'antenna, però non è votato la retta. Ebbene, se lo metti in qualche altro posto, questo verso la scatta duro fuori, non c'è qualche parabola. Agganciate quel palazzo. E il piedi così non posso pompare io, sono già 50. Sono stato in giro di quello perché sto guardando a 5. Ho richiesto a resistenza e ti sento un po' disturbato. E cosa vuoi ti dica? Di più non posso fare. Cosa tutto? Che di più non posso sollevarmi, perché sono già 50. È lunga, lunga, sì, è la gara 3. La per il Grand Prix? Ma quella si può fare il Grand Prix per modo di dire. Staccando con lo stilo ci mettiamo uno stilo di macchina, però devi lasciare sempre i radiali, lunghi, il problema è quello. È logico che le cose cambiano. Allora, perché ci deve essere il successo? Se si trasferma, la taglia una parte della nostra. Sto per quello. Guarda, è troppo. Questa dobbiamo accontentare di questa. 1 e 3. E di fatto. Lo so, stavo disfruttando qua. Se non vuoi sapere, anche la matta lo fa. Ciao. Se non le baracchine, le stupano tutte, un po' per la matto, ma se no sono piazze bene. Adesso ti dico l'ultima, ma no, sì che va la matto, vai. Ma che qui era l'assidio? Quella che ha applicato la Twitch è l'assidio. Quello lì è l'assidio, eh. Non so. C'è la carriera della grande, te. Ma, credo, la stessa, scusa. Sì, servizio di vita, cioè, già l'hai visto. Non è che sia mia volta, però si fanno tutti così. Compresa che quella che ho applicato io era peggio di quella. Tutta amaro la distanza. Dico da tutto, ma primo vento, tutto per così. La cosa provvisoria va bene, io l'ho messa provvisoria qua. Ho fatto alimentare una pupa, però c'è bene. non mi dà nessun problema, quindi adesso devo aspettare il momento opportuno per quando c'è una scala nel padrone di casa, cosa fate per me metto sopra. Però questa zona è molto migliore dove ero prima, la verità. Dicevo, molto meglio e trasmetto abbastanza bene, non mi lamento. Io adesso mi sono qua nella zona di persone che sta arrivando a palla. Va bene, guardate come sto uscendo, ci avevo visto Antonio, glieli ho fatto vedere. È anche un miracolo uscire così bene con questa antenna qua, messa dove l'ho messa, a 20 cm dal muro, figura di tu. Quindi dal muro? Quasi affacciato al muro di mare, perché il palo è attaccato alla finestra. Sale su di 3 metri e tra il muro del palazzo e l'antenna ci sarà quasi un metro, non di più. Va bene. Ti piglia c'è Antonio. Quanto vedo che te la vuoi mettere sta cosa? Guarda, un bel ponte quando c'è di quarantena là. Dopo lì, a me senti. Altrimenti sta chiamando Alessandro. Cosa? E deve essere in questo punto dove sono ora, non mi sentono. Sono un po' più lontano da lì. E invece l'altro che ti stava chiamando Alessandro. Mi sentono. Tu prova a chiamarlo. Antonio, mi senti? Cosa stai dicendo Ale? E Antonio, Alessandro si sta chiamando. Aspetta, non te lo farà. Mi ha fatto non è stato bene. Barra agricolame. Avanti, avanti. Già mi ho più giù. Ma non era già il più giù quello. Senso, popolino, che fai di tuo cimitello? Barra agricola. Ora, avanti, entro casa, fuori casa. Casa, tu lo metti. E questa migliazione di casa. Yeah. Pure adesso c'ho la febbre, come faccio? Come c'è da vivere o in macchina o in zona? Che mi sono arrivato lì pieno, e poi come fa che tutti i nomi? A casa sono. Cappa, e te stai modificando ieri? Nulla, non ho modificato niente, ho andato un po' la radio, buh. Perché stavo uscendo troppo basso. Il radio come sta uscendo? Sì, perfetto, non tocchi così, non ti lascia tutto così. Perfetto, anda bene. Per me non è entrato nessuno stasera. Poco fa c'era Bombolino, Barra Agricola, non so chi c'era dopo, qualcuno che non conosco neanche, però c'era altro di gente. Staranno ascoltando, io apribili. Bombolino, ci sei? Sì. Eccolo. Beh, mangiato anche. Facci nero bianco già. C'è Alessandro, però è bianco, va bene, ok. Adesso stiamo qua. È fatto bianco adesso. E allora Bombolino, la radio migliorato. Non me l'ha accorto, deve essere Marco, me l'ha toccata. Io non ci pensavo perché l'ha regolata. Strano. L'ottavino gli arrivavo basso stasera, buh. Ma solitamente sono mi sono preso l'abitudine e parlo sempre vicino. E che tu fa? Se parlo così forse è basso, fa così, guarda me se è basso. E così bisogna attaccare alla bocca, come il microfono normale, non è che sia. Sono un po' precompresso, ma non è che sia niente di eccezionale. C'è il compressore del microfono, il buco. Oh, io qua mi sento bene, mi sento abbastanza forte, chiaro, in cuffia, però bisogna vedere se poi all'esterno è così. No, c'è il volume microfonico più. C'è nel volume invece che essere nel microfono o nella radio, capito? Si alza da lì, non è un equilibrio, ma è proprio nel volume microfono. C'è scritto volume microfono. E lo abbassavo io per non disturbare. E comunque adesso va bene, no? Interessante quello, che si senta bene chiara la radio. Non tu, io disturbavo la cornacchia, che c'è al telefono cordless. Che microfono stai usando? E comunque con il 2000 l'abbiamo azzeccata, fate quelle piccole modifiche, è una bomba, no? Anche io quello che c'è in macchina, grazie a Dio, va bene, non consuma le batterie di nulla, è riuscito bene, invece ce ne sono certi che consumano, ce ne sono altri due che consumano un po' di batteria. No, quello della macchina no, via. Il mio va bene, durano. Oh, metto sempre dura, ce l'è come batteria. Adesso non devo dire. Metto dura, ce l'è dura. meno, quelle dure ci durano di più, sono più buone, sono più macchinine, costano un po' di più, ma ne vale la pena, dai. Ecco la gara. Ehi, che caldo che c'è in casa, non si bruciavano i nomi. Ieri ho visto la Bibbia che ha fatto, mi sono affacciato alla finestra, si vedeva un lampione, che taglio lì. Quello è il cambiamento di temperatura. Chi è che sta fischiando avanti? Buonasera per fatto. E allora, come andiamo? Pochi bravi di casina. Ecco solo, buonasera. Ho detto come andiamo, come stai, come va? E vabbè, cavagliato. Ma che sta facendo? Il computer si... Ecco perché sei occupato. Non va bene se guardiamo. Ricordati quando c'hai tempo a farmi quel CD, che mi piace molto, per fatto. Quindi ti do un dischetto vergine. Quello dove c'è... Quello che c'è la musica fatta discoteca, fatta tipo discoteca. Quello che abbiamo ascoltato sabato. E è quello che mi ha detto, quello che ti do il CD in bianco, là, così non ci perdi niente. Quello è bellino, mi piace, perché una versione discoteca mi piace. Sì. Magari fosse stato normale un po' di meno, ma la versione discoteca mi piace. Andà bene. La radio ha migliorato, per far secondo te la mia. Confronta gli altri giorni dice che è più forte. Alessandro, ci sei? Sì. Alessandro ha fatto un attimo di bianco. Dove sei? Che sei? Si è calmato per andare al bar. Dopo andare a dire una cosa, se ci viene, come faccio a muovermi a casa così? Noia. Babù. Comunque, andava. Ricordati di farmelo che mi piace il magico di un CD. Me lo metto nello stereo, così a casa me lo ascolto. Perché in macchina va bene, ascoltare con i virus. E va bene, come pure, non c'è problema. Che adesso sabato c'è un girato, non posso venire, sabato notte non c'è più girato al quadrato, non ci posso venire, come faccio? Se vengo mi bisogna sommarmi chi? Grosso mi auguro di no, mi auguro di starmi oggi sudando come un negro qua, sudando, ma avvicinando, come te non lo spogli sulla voce. E tu sei? le tossine così, che si stanno liberando. No, le tossine che abbiamo nel corpo, la roba tossica, che si libera quando subito. Abbiamo spugne nel corpo, no? Roba che non serve, roba che si liberano le tossine, perché la notte noi sudiamo, la notte sudiamo, noi non ce ne accorgiamo, ma sudiamo e liberiamo le tossine. Perfa, io seguo i corsi e queste cose qui le dicono dottori, le dicono i nutrizionisti, queste persone qua, capito? Sono da un po' di tempo che vado ai corsi, mi piace, che adesso devo partire il 13 luglio, ho fatto a Viareggio, vado in aereo e torno il giorno stesso. Abbiamo un congresso di nutrizionismo e queste cose qua, vado a far compagnia a mia moglie. Vabbè, che è tanto per provare l'aereo, perché non sono mai andato in aereo, ho sempre viaggiato in nave e non ho mai provato l'aereo, la verità. Perché? Paura. Sì, io soffro un po' di vertigini, la verità, meglio che non guardi in giù, perché non mi faccio la sola freddo. Però mi hanno detto che è bello, è come viaggiare in un pullman, mi hanno detto. Come? Cosa ti stavo dicendo? Tu l'hai mai provato l'aereo? Infatti con i cani, tutto quanto, poi siamo in nave. Sulla funivia sei mai andato? Ma invece ci sarà andato sulla funivia. Sono andato... come io sono andato alla funivia. Bello, però un po' di fifa ti viene, non ti ferirà. Io sono andato una volta, andate e ritorno, va. Due volte. Ma diciamo che c'era una nuova esperienza a provare. Sei andato in elicottero? Che? No, io sono andato in un incidente stradale, sono salito, e vicino a Stintino, che è andato nella strada, sono salito io e l'uomo di fare che c'è. Eravamo con l'ambulanza, eravamo più quasi di quattro, uno ha preso l'ambulanza e noi siamo saliti in elicottero. Ti dirò che è stato bello, siamo arrivati subito al contrario, scaricato l'ammalato, qualche ambulanza era già lì, aspettava e via. Quindi un po' di paura l'ho avuta, dico la verità. scala di Alenzo. E dicono che c'è la pertosse, roba del genere, che fa bene per l'elicottero, spiega l'aria dell'alto, che gliela fa passare. Non ci sono voluto salire io, se no una persona che portava non l'elicottero ma l'aereo ultraleggero ci voleva portare. E poi un'altra volta al campo dove volano gli aerei a Plattamona avevamo delle conoscenze, c'erano due CP che ci avevano, anzi tre, che avevano brevetto di volo e ci avevano anche l'aereo lì. E mi hanno chiesto se volevo andare, ma capito c'è andato, io no. Non si immagina. E non so che cosa ti fa, è tipo quando vai nelle montagne russe, queste cose qua, che ti senti tutto tanto tirato, fatto. Pendolando per guardare e la fogna che c'è sotto. E siamo dovuti andare con l'Land Rover perché ci hanno descritto l'incidente e con l'ambulanza, con l'Land Rover abbiamo messo il vericello per tenere la macchina in tira per non farla cadere giù. E poi abbiamo tolto i finiti, ma erano finiti gravi, i gotti, le bottiglie del whisky tutte vuote dentro, birra, gli avvenire a bocca di roba. Lui invece si è sbattuto la testa, per fortuna non è che si è fatto niente di grave, almeno apparentemente, non voleva andare manco all'ospedale. I colleghi mi hanno detto vai all'ospedale, cosa stai dicendo, vai fatti accompagnare. E alla fine lui faceva un segno nero nella fronte. Io conoscevo anche la madre, l'insegnante la madre, lo insegnava a Polo Torres. Di quello di colui. Pilota di Vigili. Yeah. E Usai, quello che guida, è l'unico che guida, che si chiama Usai, che guida di Vigili. Ah, Usai grande, questo qui, quando ha avuto l'incidente, avrà avuto 45 anni. Là. Quello che c'è gli occhi chiari. Vabbè, comunque quello lì, quello gioco, ragazzi, è un classico. Era la macchina è rimasta a Pezzoluni con la risvegliarsi e a Pezzoluni si fa il corso, si fa tutto questa barcarina. E praticamente gli hanno dovuto tagliare con le cisure la cappotta per quello che dice. Hanno tagliato con le cisure la cappotta, la macchina l'hanno, ce l'hanno proprio imbragata a lui, ha detto che abbiamo fatto benissimo a fare quel lavoro, perché se no non sapeva cadere di lì. Non me lo ricordo. Praticamente mi hanno detto che hanno fatto la curva e ci sono usciti lì, verso il ponte. E dall'altra parte stava sopraggiungendo la città mercato, stava salendo quello dei vigili del fuoco, non è guidato in pieno. E poi ci sono usciti sopra il ponte, sopra diciamo al guardia, a Pezzoluni, una parte davanti e l'altra dietro, a Pezzoluni. Se no fatti male veramente uno all'addome, mi ricordo, c'era la ambulanza a lui, mi ha fatto male forte all'addome, l'altro era sveduto, non dava, non parlava niente, era in coma, si presenta che stava malissimo. Il mondo non è perché beve che sia cattivo, ragazzi, può succedere che trovano degli amici, si bevono una cosa, magari non tira l'altra, ma non è che lo fanno perché sono cattivi, ragazzi, per carità. E magari non hanno manco l'abitudine di bere, ma nel momento era di gusto. Sì, ma... Sì, vabbè, vale male. Sì. Allora, io addirittura quando ho detto che, quando c'era il centro, ho detto sicuramente sono sbrondi perché, come si dice, perché ci sono delle bottiglie vuote dentro. E la signora, se fosse la ramana, si è girata e mi ha detto guardi che non sono sbrondi, non bevono questi ragazzi, li conosco io. Sì. Oh, yeah. Sì, vabbè, mi ricordo che era molto incidente, che dovevo prendere la capotta per le strade. Sono diventato sordo, che fa? a quest'ora, la paglia. Yeah. stanno dove lavoravo io, avevamo un pastore belga e poi aveva fatto i figli, e un pastore tedesco, e c'erano i bracciati e avevano fatto i figli, il pastore belga e un pastore tedesco, e abbaiavano sempre le pecore che confinavano con il nostro recinto, si attaccavano al recinto, loro le abbaiavano per far andare via, se non avevano fatto il pascolo, tra le musiche un piccolo erano acciaccati tutti aggrappati in terra. Ma non è che le mangiavano, non facevano il loro bene, non le facevano avvicinare al recinto. C'era il recinto che diviveva il capannone dalla campagna. E le pecore si avvicinavano sempre al recinto, allora loro le abbaiavano. E questo pastore si era lamentato un bel volto per queste schiacciate. E noi le abbiamo detto, i cani sono lì per fare la guardia. Se le pecore si avvicinano al recinto, se le abbaiano, non è che si le sta mangiando. E gli cicali li vede tutti quasi che vini fea lì. E tipo l'ha fatto, il nome cane ha mattato, li ha chiamato anche i carabinieri e ce l'hanno detto sicuramente per pastore lì. E noi l'abbiamo detto sì perché ci ha minacciato. E ma se sappiamo che lui una bella denuncia non l'ha più nessuno. Cosa facile. Abbiamo chiamato subito il veterinario, ma ci ha detto che gli aveva avvelenato. Stava uscendo la bava, c'erano due vivi, due cuccioletti, erano vivi ancora, però stava uscendo la bava. Thank you. No, infatti siamo un camino, immagino solo se vediamo che sta facendo. Thank you. porcino. Diciamo che ho avuto la ricompensa, la giornata, la ricorda. mio giardino. Cerca te costellina. Benissimo così, Pierpa. a volte questi stili ci sono complicati. Thank you. di Ossi, bruciato tutto. Vi lascio e ci vediamo.